giorno è oggi. E allora mi alzo qui, bevo un po', un minuto per capire dove sto. Non mi chiedere risposte che non ce l'ho. So però che ieri abbiamo fumato fino a diventare stupidi con il cervello in overload. Ne giro una di un chilometro. Scusa, mi ricordi il tuo nome, bro? Scusa. Lunedì, sempre uguali. Guardiamo fuori, sogniamo la pioggia che cade con in testa ancora la musica dei locali. Regolari, ma ci facciamo forza per tornare come due giorni prima con due personali. Dormiamo sempre poco e mai gli stessi orari. Fra più o meno come fanno i pendolari. Ma va a finire che però quando ci cerchi puoi trovarci sempre qua. Quando piove o se c'è il sole ridiamo in eternità. Gente col cappello girato senza carta d'identità. Che quando esce di casa per andare in Olanda è l'unico giorno che non se la dimentica. Mai voliamo dove? Più in alto, al cuore, un infarto, hai due ore e riparto. Il mondo gira, la gente parla, ma noi non ce ne frega un cazzo. Stiamo in quattro su un divano, ne accendiamo una. Ce ne stiamo in Hangover. Ce ne stiamo in Hangover. Ce ne stiamo in Hangover. Ce ne stiamo in Hangover. Già lo sai che ce l'ho, se me lo chiedi già lo sai che ce l'ho. Già lo sai che ce l'ho, se me lo chiedi già lo sai che ce l'ho. Quindi noi ce ne stiamo in Hangover. Ce ne stiamo in Hangover. È martedì, da due ore. Fuori non c'è niente che fa rumore. Devo ancora lottare contro il malumore. Tanto vinciamo noi, perché stiamo insieme sdraiati sul tappeto a parlare finché non vediamo il sole. Aspettiamo il cielo che cambia colore. Guarda, che facciamo te ne accorgi dall'odore. E dai allora alza quelle serrande, che esce il fumo e entra il fresco. Poi ti guardo negli occhi e giuro che stasera non esco. Magari giusto un bicchiere, sì, ma facciamo presto. Che domani ho un po' di cose fra che rimando da un pezzo. E poi guardaci in alto come sui trampoli. Nah, senza i farmaci, nah. Leggeri come i coriandoli. Con quelli parlaci, sai già che ti diranno, sì, che fai una vita sbagliata e che non sta bene. Per questo non li guardo in faccia e rimango qui. Fanculo. Puntuali, puntuali. Le sette, tic-tac. Sto con due gemelle. Le lancette, mua. Si muovono perfette. Il mondo gira, la gente parla, ma noi non ce ne frega un cazzo. Stiamo in quattro sul divano, ne accendiamo una te. Ce ne stiamo in Hangover. Ce ne stiamo in Hangover.